Bentornati, Old Time Rock and Roll Radio F, una delle puntate direi più fredde di... della stagione. Beh sì, l'era sì. Glaciale. Sì, sì. Glaciale. Senti Padu, senti. No, un freddo. Un freddo. No, poi veramente i primi si muore. Si vedono subito veramente i primi problemi. Poi, la mattina trovi la neve, 3 centimetri di neve. Il panico sulle strade. I microfoni hanno richiesto doppia copertura questa sera. Fa freddo anche a microfoni quasi, veramente. Comunque, siamo sempre noi. Io sono il Patro, accanto a me Luke. Ciao. Il Nanno. Saluta. Ci so. I due tecnici. Ciao. Masa, Bindo. Buonasera. Allo. E partiamo subito anche questa puntata. Abbiamo compleanni, parleremo sempre della storia del rock. E parto subito con il compleanno della mitica Tina Turner, nome d'arte Anna Mia Bullock. Patru, fa una cosa, allunga perché abbiamo dei problemi con la chiavetta. Oh, allungherò, tranquillo. E nata a Natchbush nel 27 novembre del 1939. È una cantante e attrice statunitense tra le più famose del rock internazionale. Per i suoi contributi a questo genere è considerata, sin dagli anni 60, la regina del rock and roll. Pensa te. No, the Best. È stata una grandissima e lo è. Beh, ancora. Anche ora è una grande. E andremo... un pezzo di storia della musica. Sì, sicuramente. E andremo a parlare, o comunque sia, celebreremo il suo compleanno con la canzone The Best, o meglio, bellissima, The Best, sì. Che forse tu conoscerai meglio come Simply The Best. Ovvio, perché chi è che non conosce Simply The Best? Anche perché, se non sbaglio, era una canzone di un programma televisivo, se non ma sbaglio. Ma è stata inserita anche in tanti altri contesti. Sì. Diciamo anche quello sportivo, perché è una canzone che commemora il migliore. Beh, di certo, conseguenza. Ovviamente. E è una canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler. Nel 1988 e portata al successo da Tina Turner, appunto, l'anno successivo, quindi neanche tanto. Questa cover del brano ha avuto un successo nettamente superiore rispetto all'originale, come molte volte succede, accade, e come abbiamo già detto altre volte, tipo se non sbaglio, tipo anche quella American Woman. anche lei era tantissime che adesso non mi vengono in mente, certo, insomma, anche di Bob Dylan e di Jimi Hendrix, insomma, sono sempre state reinterpretate, certo, e spesso la seconda volta, esattamente, e viene spesso erroneamente appunto considerata come la versione originale della canzone. The Best è uno dei brani più rappresentativi della carriera di Tina Turner, oltre che uno dei suoi più grandi successi. Il singolo raggiunse la posizione numero 15 nella Billboard Hot 100 e riuscì ad entrare nella top 5 del Regno Unito, in Germania e in altri paesi europei. Quindi, carissima Tina, tanti auguri, e questo è The Best. Tanti auguri, Tina. Auguri alla grande Tina Turner. Adesso continuiamo con la storia del rock. Come sempre, siamo negli anni 50. Nella prima puntata vi abbiamo parlato di come sia nata la cultura rock in America e di Chuck Berry, ideatore rivoluzionario di questa cultura musicale. Dopo la seconda guerra mondiale, la diffusione delle chitarre elettriche e degli impianti di amplificazione favorì un'intensificazione delle sonorità, aumentando la potenza ritmica e musicale. Questo provocò un'evoluzione del sound fino alla creazione di questo nuovo genere. Quando le canzonette orecchiabili e stupide di sempre continuavano a tartassare le radio con i loro ritmi melensi, tutti furono travolti da uno stile nuovo, carico di energia. In molti locali iniziavano a sentirsi le prime chitarre distorti e i primi urlatori del rock and roll. Il neonato rock mischiava elementi di blues, jazz e boogie-woogie, creando una miscela esplosiva. Il modo di suonare stava cambiando completamente. La batteria in primo piano divenne più frenetica e rumorosa. La voce sporca e dura che gridava e scandiva i testi, scritti nel gergo dei giovani e ambientati nel loro mondo, mentre la chitarra elettrica sostituiva il piano e i suoi toni aspri e crepitanti. Quante volte te lo sei ripetuto? Crepitanti. Venne sperimentato in primis da Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e tanti altri che poi diventarono i mostri sacri della storia di questo genere. Andiamo subito a presentarvi la prossima canzone che, come le altre due che ne seguiranno, ripercorre lo stile musicale dell'epoca. Elvis Presley, Burning Love. Avete appena ascoltato Burning Love, che è stato un brano di Elvis Presley scritto da Dennis Lind e reso celebre proprio da il re del rock. Elvis registrò la canzone negli studi della RCA Records a Hollywood il 28 marzo del 1972. In precedenza il brano era stato inciso anche da Arthur Alexander, che lo aveva inserito nel suo omonimo album del 71. La versione di Presley venne pubblicata come singolo il 1 agosto del 72, lato B di It's a Matter of Time. E voltiamo pagina in tutti i sensi. Il rock and roll sconvolse tutti i canoni tradizionali della musica. Era un genere che per la prima volta parlava ai giovani e venne accusato di spingere i ragazzi a ribellarsi contro i loro genitori e di influenzare negativamente il pubblico. Alan Freed, in particolare, venne attaccato come simbolo del cambiamento in corso, accusato di corrompere e trascinare verso la delinquenza il suo giovane pubblico, che direi proprio che non era assolutamente vero, però vabbè. A posteriori sì. Vabbè. Magari lì per lì poteva sembrare. Beh sì, oddio, in quegli anni forse sì. Promotore alla radio della musica rhythm and blues, fu il primo DJ a far conoscere il termine rock and roll al pubblico bianco americano. Personaggio di alto spessore, si può considerare colui che ha inventato il termine rock and roll. La sua storia viene spiegata accuratamente nel film Mr. Rock and Roll, la storia di Alan Freed. Ring of Fire è una famosa canzone country portata al successo da Mr. Johnny Cash e scritta da June Carter, moglie di Johnny Cash, e da Merle Kilgore. La canzone è stata registrata in origine per l'album di Anita Carter Folk, Songs Old and New, del 1962, con il titolo Loves, Ring of Fire. In seguito è stata pubblicata dallo stesso Johnny Cash come singolo nel 63, il 25 marzo dello stesso anno, inclusa nell'album Ring of Fire The Best of Johnny Cash. Il testo è un chiaro riferimento all'innamoramento. Secondo alcune fonti, John Carter avrebbe visto la frase "Love is like a burning ring of fire", l'amore è come un anello di fuoco cocente, in alcuni libri di poesia elisabettiani di suo zio. Così cominciò a lavorare con Merle Kilgore ad una canzone ispirata alla frase. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ring of Fire, Johnny Cash. Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Johnny. Negli anni 50 il rock era alle sue prime armi. Aveva quindi ritmi semplici che si ripetevano più volte e i testi trattavano soprattutto di musica. Anzi, spesso il rock stesso era protagonista di moltissime canzoni. Insomma, ne erano tutti pazzi e malgrado le critiche della stampa, o forse proprio grazie ad esse, e della società tradizionali, le masse giovanili di tutta America assunsero un nuovo comportamento. Il rock li aiutò a crescere e a cambiare modo di pensare, come poi vedremo negli anni successivi. Il fatto che il pubblico fosse prevalentemente giovanile fu molto importante per quanto riguarda il successivo sviluppo della musica di massa. La scolarizzazione di massa, la diffusione della radio, l'invenzione del 45 giri, la rivoluzione sessuale, una progressiva integrazione razziale, il consumismo. Tutto questo favorì la diffusione del nuovo genere, unitamente al bisogno dei giovani di riscattare la propria identità, liberandosi dalla famiglia e dalla società che li opprimeva. Il rock and roll si può definire in genere un genere di rottura, in quanto non si diffonde con le grandi etichette discografiche, unisce pubblico nero e bianco, supera, mettendo a volte anche in ridicolo, la musica leggera, e soprattutto perché celebra e si fa portavoce delle nuove ribellioni dei giovani. E Great Balls of Fire è universalmente riconosciuta nella versione pubblicata da Jerry Lee Lewis, registrata nei Sun Studios a Memphis l'8 ottobre del 1957. Bravo, bravo, bravo Massa, bravo Nando. E pubblicata su disco singolo per la Sun Record. Vabbè, però te la conto buona lo stesso. Grazie. Prego. E pubblicata su disco singolo per la Sun Records nel novembre dello stesso anno. Il singolo raggiunge la seconda posizione della Billboard Hot 100. La terza della classifica R&B e la prima nella classifica country. Inoltre il singolo arrivò in vetta anche alla classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Quella. Great Balls of Fire è un singolo del 1957 scritto da Otis Blackwell e Jack Hammer. Anche questa canzone è stata inserita nella lista delle 500 migliori canzoni stilata dalla rivista Rolling Stones. E adesso Great Balls of Fire. Great balls of fire. I let the love hold up all in the spotlight. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness gracious, great balls of fire. Great Balls of Fire. Ringrazio il Mazzeo che ci ha fatto il countdown come tutte le volte stile Capodanno. Stile e adesso andiamo un po' avanti con gli anni. Andiamo un po' avanti con gli anni. Disintegration. Vuoi di Disintegration? Volentieri. Vai di Disintegration. Disintegration The Cure. Nell'anno 1989. Chi abitua sì, un po' di verve, dai. Scusate perché il bindi mi suggerisce. Non c'è un Cure. Verve, via. Ma non c'erano i Cure. Sì, ci sono i Cure. Ok. I Cure. Verve. Quella di verve bellissima. Noi ci sa la verve stasera. Abbiamo anche messo. I Cure. I Cure. Degradation. Sì. Disintegration. Ce la facciamo andare avanti. Vi prego. Sequestration. Nenne. Chi è abituato alla versione d'album può forse nutrire qualche dubbio sul drastico taglio necessario, The Verb, per far entrare nel circuito delle radio da 7.24 a 4.48. In realtà non si perde molto della cristallina bellezza della canzone, votata da Rolling Stone tra le più influenti e importanti della sua storia. Sto prendendo a calci il filo delle cuffie. E Pictures of You fu composta da Robert Smith dopo un incendio a casa sua. Nei giorni seguenti, mentre cercava di ritrovare ciò che era perduto e capire ciò che era perduto per sempre perché bruciato, si imbatté nel suo portafoglio che conteneva alcune foto di sua moglie, Mary Poole, una delle quali finì in copertina. La stessa foto sarebbe poi finita, però distorta e quasi irriconoscibile, anche sulla copertina di un altro disco dei Cure, Charlotte Sometimes. Ispirato al libro di Penelope Farmer dello stesso titolo, da lì uno spunto per una ballata d'amore struggente e lacerante. È Cure. In perfetto stile Cure, un capolavoro assoluto. Vi è arrivato un messaggio. Interessante. Ecco. Possiamo mandare. Pictures of View dei Cure, anno 1989. Bella. E allora prima avevamo detto che andavamo un po' avanti con gli anni, ora invece ritorniamo indietro. Un po' indietro. Come Back to the Future. E andiamo a parlarvi di una canzone che non ha neanche bisogno di presentazioni, penso. Ovvero Wish You Were Here. Facciamo, parla lui. Un brano musicale dei Pink Floyd contenuto all'interno dell'omonimo album del 1975. Come la maggior parte delle canzoni dell'album, è dedicata all'ex membro dei Pink Floyd Syd Barrett, allontanato dal gruppo nel 1968 per via di una grave infermità mentale e fisica causata dal continuo abuso di droghe. E che aveva praticamente compromesso la sua partecipazione ai concerti e al lavoro in studio. Il refrain principale è stato ideato da David Gilmour mentre suonava la chitarra acustica negli Abbey Road Studios. Gilmour propose poi il riff a Roger Waters, il quale ne rimase positivamente colpito, e successivamente i due collaborarono per completare la canzone. Nel 2004 il brano è stato inserito nel magazine Rolling Stones come posizione numero 316, nella lista delle 500 migliori canzoni non di male, tutti i non tempi. Male, non male. Wish You Were Here, Pink Floyd. Part in the war. Come subito? Subito. Che? Subito. Cioè, subito. Wish You Were Here, Pink Floyd. Cioè, il Mazzeo passa da fare il cool down della canzone da un minuto e mezzo subito. O a niente. O a niente. O a 0.5. Ce lo subito. Ce lo disse. Udici Mazzeo. Subito. Subito. E ritorniamo un po' avanti con gli anni, andiamo, diciamo, proponendovi avanti e indietro, qualcosa... avanti e indietro, esatto, flusso canalizzatore indietro, avanti, e continuiamo proponendomi appunto qualcosa di più recente per quanto riguarda il rock and roll, e andrò a parlare di Sunday Bloody Sunday, la domenica di sangue. È il 30 gennaio del 1972, quel giorno nella città nord-irlandese di Derry, conosciuta anche come Londonderry, l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti ad una manifestazione. 14 persone civili disarmati vennero uccise. L'episodio passò alla storia così come Bloody Sunday, appunto la domenica di sangue, dal quale gli U2 decisero di scrivere questo brano in memoria di questo terribile episodio. Gli U2, Sunday Bloody Sunday. How long must I Sunday Bloody Sunday. Nanno, ormai sei il disannunciatore ufficiale, YouTube. Salute. E adesso continuiamo con un po' di rock italiano. Sì. Beh, ci vuole sempre un po' di rock italiano. Italiano. Così. I Durri hanno due cuori, è un pezzo in parte parlato sullo stesso stile di Bambolina Barracuda contenuta in Ligabue, l'album ovviamente, certo, in cui Liga narra di un personaggio con la fama da duro, Veleno. Veleno. Lo so anche te. Bravo Masa. E della sua vita fatta di poche soddisfazioni e molti momenti no, intesa come metafora di vita di ognuno. La musica ha tonalità rock, ma molto melodiche, in cui il BPM si mantiene andante, ma non troppo. Il pezzo è diventato l'inno ufficiale del fan club del rocker di Correggio. I Durri hanno due cuori. Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche birra. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione. Una foto di donna gli brucia da dentro la giacca, chiaramente dalla parte del cuore. E la gamba gli duole del peso del freddo di un cannone che chissà come è riuscito a trovare. Non ha tempo né voglia di pregare Dio perché può contare soltanto sul suo dolore, su sei colpi infine su di sé. C'è chi ha scelto la donna sbagliata e forse scelto per tutta la vita, altra scelta che ha e a chi farla finita. C'è chi ha scritto bestemmie sul cuore, però i conti per sé li sa fare. Non piange mai se non è davvero solo. I Durri hanno due cuori, col cuore buono amano un po' di più. I Durri hanno due cuori, col cuore guasto odiano sempre un po' di più. E Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato le ossa uscendo per forza dal cuore. Di così tanto mondo c'è solo un posto in cui possa tornare e gli scappa una stramaledizione. Sta pensando che la sera dopo darà un cazzotto ad un tipo che questa sera rideva di lui e si è fatto sentire. Darà pugni alla porta di camera sua, urlerà alla sua donna ed al suo amico di fare più piano e sul suo divano si stenderà. C'è la notte di chi c'ha un amante, o è la notte di chi non ha niente, o è la notte per forza, volenti o nolenti. C'è chi ha perso una brutta partita, però forse una fischia è restata, o può darsi ci sia un altro giro di ruota. E poi non piange mai se non è davvero solo. I Durri hanno due cuori, col cuore buono amano un po' di più. I Durri hanno due cuori, col cuore guasto odiano sempre un po' di più. Ed era il grande Liga, un po' di rock italiano nel nostro programma in questa Patro, puntata. Se vuoi ristoppare la registrazione sì, un'altra volta lo puoi fare, eh? Infatti, se sì, ci sarà qualche problemino o un paio di buchi da 5 secondi nel podcast, la colpa è la mia. Sì, è la mia. Ho fatto casino. Sono attirato dalle barre spaziatrici delle tastiere. Delle tastiere. Oh, raga, che ci posso fare? E a me sempre l'onore di ricordare gli appuntamenti, i nostri soliti appuntamenti, la pagina Facebook All Time Rock and Roller Radio F, e appunto il podcast, magari con un paio di buchi come ho appena detto, e il contest, il concorsone, le nostre 5 canzoni che noi scegliamo e che voi potete votare. Siamo arrivati alla fine anche per oggi. Oggi però chiudiamo un po' diversamente dal solito, con meno spensieratezza nel microfono ed un po' più di angoscia nel cuore. Celebriamo la memoria di un giovane ragazzo, foianese proprio come tutti noi, che ci ha lasciato pochi giorni fa, Matteo Roghi. All Time Rock and Roll e tutta Radio F si stringono al cordoglio dei familiari. Noi non siamo qui per fare cronaca, vogliamo solamente ricordarlo con una bellissima canzone di De Gregori, che parla proprio dello sport che Matteo amava tanto e che in una fredda giornata di novembre se lo è portato via. Palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore dove ti dà il coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. We'll be right back. We'll be right back.